rivedo ancora il treno, allontanarsi e tu, che asciughi quella lacrima, tornerò, com'è possibile, un anno senza te, adesso scrivi aspettami, che il tempo passerà. Un anno non è un secolo, tornerò, com'è difficile restare senza te. Sei la vita mia, quanta nostalgia senza te, tornerò. Tornerò. Senza te tornerò.